Convocati di Carlo Genta. Finisce i Cleveland Cavaliers sono campioni NBA, i Cleveland Cavaliers sono campioni NBA per il 2016. LeBron James MVP. Buongiorno a tutti ragazzi, come sapete in questi giorni vi stiamo raccontando ciò che è successo nel corso dell'anno, ma attraverso personaggi. Ogni sport, quattro personaggi in cerca d'autore. Vi sarete stufati di sentire questa definizione, ma io la ripeto. Siamo partiti dalla Formula 1, poi siamo passati attraverso il moto mondiale e oggi, tanto per cominciare, lo sport che nel cuore mi sta, come molti sanno, cioè il basket. Abbiamo sentito il racconto degli ultimi secondi della finale NBA e io direi che per quanto riguarda il basket, in una storia che si incrocia con la realtà italiana, i personaggi, non so se i miei ospiti condividono, ma ora glielo chiedo, sono LeBron James che è tornato a vincere, Steph Curry che è stato il miglior giocatore della scorsa stagione regolare, Kevin Durant, e cioè quello che verrà nel 2017, quello che ha cambiato maglia, la superstar che è andata ad arricchire i già ricchissimi campioni, e Ettore Messina che ha deciso di rimanere alla guida della nazionale. Io saluto Simone Sandri da New York. Ciao Simone. Buongiorno Carlo. E non c'è bisogno di presentazioni né per voi né per Simone Sandri, Davide Pessina, il talent di Sky. Ciao Davide. Ciao Carlo. Ciao. Sei d'accordo con me? Questi quattro personaggi della stagione, per storie che si intrecciano. Sì, sicuramente, ce ne sono volendo altre, però sono le storie forse più interessanti. Già insomma, questo piccolo spicchio di stagione si è già visto qualcosa, ma il bello deve ancora tutto venire. Il bello deve venire. LeBron che batte Steve Curry nella finale, poi c'è stato quell'infortunio di Curry che non ha potuto giocare al 100%, però il re è tornato, Simone Sandri. Sì, senza dubbio, e nel modo in cui è tornato, portando la sua città sul trono dello sport americano, soprattutto regalandoci veramente un thriller pazzesco di queste finali, perché sul 3-1, diciamoci la verità, in ben pochi potevamo sostenere che avrebbe potuto girare la serie. LeBron invece ha cambiato marcia, ha fatto qualcosa di incredibile, veramente straordinario, e credo che resterà nella storia dell'NBA. Sì, un giorno quando LeBron passò, Davide, quando, ti ricordi benissimo, quando LeBron passò da Cleveland a Miami, ci fu Michael Jordan che disse: no, dovevano gli altri venire a giocare da me per vincere i titoli, io non sarei mai andato a giocare da Charles Barkley, non sarei mai andato a giocare da Patty Ewing. Con Kevin Durant si può fare questo discorso? Scusa, io ti ho perso un pezzo, chiedevi a me, Carlo? Sì, chiedevo a te, Davide. Ah, sì, questo è un grande tema del momento, sia le superstar che si spostano, se questo è abbastanza macho o non è abbastanza macho. Io credo che macho non possa... mi dispiace. Esatto. Io credo che ognuno faccia la scelta che più gli sembra giusta per il suo momento per la sua carriera. Oggettivamente io mi sono sorpreso. Quando Durant ha scelto di andare via da Oklahoma City, già solo per quello, e che poi scegliesse proprio Golden State, ma anche perché alla fine tu vai a giocare in una grande squadra che ha fatto il record di vittorie in stagione regolare, che era a 48 minuti dal secondo titolo in fila. Insomma, come dire, il rischio è tanto, perché se poi invece quest'anno non dovesse andare nello stesso modo, rischi che la colpa sia tua. Sì. Però io credo che, insomma, ripeto, sia una scelta personale, uno con la scelta personale fa quello che vuole. Diciamo, certo, che sta succedendo sempre un po' di più, questo sì. È anche vero che insomma Golden State adesso sta cominciando a mettere a posto due o tre cose, fa vedere che potenzialmente possono essere una bella squadra. Ma credi che non ci sia gara, che non ci sia partita in questa stagione con il passaggio di Durant a fianco di Steph Curry? No, io credo che ci sarà gara. Ci sarà gara. Nel senso che alla fine devi riuscire a mettere tutto insieme, far sì che tutto funzioni bene al momento giusto. Cleveland è comunque, rimane una grandissima squadra, ha vinto l'anno scorso, per cui questo in qualche modo ti dà fiducia. Qualche sorpresa nel corso della stagione arriverà. Sulla carta Golden State è molto forte, però ripeto, poi devi vincerla sul campo. Simone Sandri, quando finisce la leggenda degli Spurs? Adesso cioè, Tim Duncan che ha smesso, ogni tanto va a fare allenamento, come ha detto Popovic, magari viene una volta a settimana, una volta al mese, viene a farci compagnia. Poi chissà, magari rientrerà a sorpresa nei playoff, non credo, però questa è una leggenda che continua. uno dei temi delle conspiracy theories, dice che a marzo, quando sarà l'ultimo momento per fare i roster dei playoff, ci ritroveremo Tim Duncan sotto canestro con la maglia degli Spurs. Io sinceramente non ci credo, perché per il tipo di persona che è Tim Duncan, non credo proprio che arriverà a fare una cosa del genere. Certo che gli Spurs sembrano quasi ogni anno diciamo che ormai sono arrivati quasi al capolinea, questo è un po' l'ultimo ballo, sì. E tutti cominciano ad avere una certa età, e invece bisogna dare atto a Popovic, a Sibiufa, alla dirigenza degli Spurs, il modo in cui gestiscono la transizione delle grandi stelle. È una delle cose più difficili da fare a livello NBA, e loro comunque ogni anno riescono a trovare qualcuno che in prospettiva possa veramente prendere il testimone delle grandi stelle che stanno arrivando. Tant'è vero che quando le grandi squadre, quando le grandi dinastie finiscono, sono anni e anni e anni di vacche magre in maniera normale, quasi consuetudinaria per gli sport americani. Non so se Davide Pessina crede alla cospirazione di Duncan nei playoff. Sarei molto sorpreso, sinceramente. Sarei molto sorpreso, sì. Ci sta un giocatore come lui, arriva a un punto, dice basta, l'ha fatto a modo suo, cioè non ha parlato con nessuno, neanche si è presentato alla conferenza stampa del suo addio, il numero uno del mondo. ha mandato avanti Popovic. Ma perché, cosa devo dire? Ho detto che smetto, basta, finita così. Io credo che sia finita, purtroppo, però voglio dire, d'altronde, se c'è una cosa certa nello sport è che prima o poi tutti smettono, perché purtroppo non si può andare oltre certi limiti fisici. Detto questo, il mistero di come riescano a essere sempre così competitivi. Oddio, mistero mica tanto, perché secondo me si può riassumere in Popovic e adesso c'è Kawhi Leonard, attenzione, il nuovo Duncan. Questo è un altro pazzesco, un giocatore pazzesco. Cioè un robot che è il perfetto giocatore per ogni allenatore, adesso è diventato anche uno dei primi 5 attaccanti della Lega, oltre a essere a mani basse proprio il miglior difensore, per cui io credo che anche lì per il futuro si è messi abbastanza bene, cioè all'Alamo. Senti, dimmi un'ultima, Davide, sull'altro personaggio che ha trovato un autore, anzi due autori, uno proprio a San Antonio e l'altro in azzurro, Ettore Messina, che alla fine, dopo la nostra più grande delusione stagionale, ha deciso di rimanere alla guida della nazionale. Perché se no non diventi allenatore a quel livello, se non hai il fuoco dentro, se una sconfitta non ti lascia uno strascico, non diventi un grandissimo come lui. Io credo che, insomma, per il suo orgoglio, onestamente Torino è andata molto male, c'era tutto per poter andare alle Olimpiadi, qualcosa si è piantato e io credo che voglia finire il lavoro che ha iniziato. La squadra è buona, perché la squadra è buona e c'è la possibilità di fare un buonissimo europeo, perché io credo che Messina, insomma, proprio di orgoglio abbia scelto di dire va bene, rimango perché voglio finire questo lavoro. Io credo che sia una buona cosa per lui, soprattutto per la nazionale, perché comunque rimane uno dei migliori allenatori d'Europa. Assolutamente, grazie Davide, ci sentiamo, un abbraccione, grazie Davide Pessina. Simone Sandri, stai con noi adesso, ci fermiamo per il traffico e poi approfondiamo tutti questi temi, compreso un altro che nel cuor mi sta, e cioè i New York Knicks, per cui io faccio un tifo dichiarato, e che continuano a costruire dopo anni e anni e anni, nonostante l'arrivo di Phil Jackson sulla poltrona presidenziale, continuano a costruire delle squadre che non hanno un posto dove andare. Traffico. Tutti convocati. Io ho comunque sia le idee chiare, cioè il liceo linguistico. A volte anche prima di dormire ci penso, ma sarà la scuola giusta. Al via il 16 gennaio le iscrizioni a scuola, e per i ragazzi di terza media non è facile districarsi fra licei tecnici e professionali. Sono Maria Piera Ceci e insieme ad insegnanti, ragazzi, scuola.net e con i consigli di Roberto Vecchioni e Alessandro D'Avenia vi darò una mano nella scelta delle superiori. Scuola. Quale scelta per i nostri figli? Sabato 31 dicembre dalle 11 su Radio 24. Tutti convocati. Curry, another three. The Curry eruption continues. A tie game. Shoot the runner, shoot, shoot the runner. I'm a king and she's my queen. Curry with a tough time. Curry gets it off. And with Miller's hand on the ball, was able to hit from downtown. timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 6/10 of a second remaining. Siamo al racconto della stagione e all'apertura delle finestre sulla stagione che verrà in tanti sport. Adesso stiamo parlando di basket, poi approfondiremo il discorso sul tennis, ma io voglio rimanere appunto sul mio sport preferito. Che Steph Curry sia un fenomeno è indiscutibile, che Kevin Durant sia un fenomeno è altrettanto fuori discussione. Io chiedo anche a Simone Sandri se questo binomio può funzionare. Sei d'accordo con Davide Pessina quando prima ha detto credo che comunque ci sarà partita? Vedi qualche problema nella costruzione di una squadra già vincente e che deve inserire un giocatore come Durant? No, non vedo nessun problema sulla carta. La realtà è però che non si gioca sulla carta, si gioca sul bravo, parquet. Bravo. E non ci dobbiamo dimenticare che ci sono gli intangibles che a ogni angolo vengono ritrovati. Esempio, sul 3-1 è una serie dominata, c'è la squalifica di Raymond Green che cambia un po' la serie di Cleveland e cambia la storia di Cleveland, del basket, di Golden State Warriors. Se vanno a giocare gara 5 in casa di Golden State con Draymond Green, non è detto che Cleveland vinca, magari poi la vince, magari viene vincita di fila, per carità, però bisogna anche considerare che ci sono delle singole giocate, delle singole decisioni che vanno a decidere, certo, poi. Per cui dire adesso è definito, sicuramente questa squadra dominerà, è un po' difficile. Sulla carta è una squadra secondo me pazzesca, con pochissimi punti deboli, forse certo quello del rimbalzo, ma con pochi punti deboli e con un'esplosività offensiva che forse non c'è mai stata in nessuna squadra NBA. Senti, adesso fammi un po' sanguinare il cuore prima di intrecciare queste storie con quelle italiane. Parlami dei New York Knicks, che rimangono comunque una squadra perdente. Sì, rimangono una squadra in cui non si capisce tanto bene la direzione, non si capisce la direzione che abbia intrapreso Phil Jackson, perché per come sono costruiti in questo momento i Knicks possono puntare ai playoff, perché sono una squadra che ha sufficiente talento sempre che tutti rimangano sani, ed è un, come si dice da queste parti, a big if, un grande se, sì. Perché comunque sono un roster con tanti giocatori che sono proni all'infortunio. Detto questo, è una squadra che ha talento, però è una squadra che è costruita senza tanto senso, non si capisce se è la squadra di Carmelo Anthony, di Porzingis, che potenzialmente è un giocatore straordinario, ma ha bisogno di spazio a livello offensivo e non può avere lo spazio di cui avrebbe bisogno con un giocatore come Melo accanto. Che cosa si vuole fare con Derrick Rose, che è un giocatore che nel triangolo sicuramente non dà il meglio di sé, e quale sarà un po' il futuro di questa squadra? Secondo me quest'anno i Knicks possono arrivare anche ottavi, settimi a est, però è difficile pensare che possano magari fare una cavalcata nei playoff e arrivare nella finale ad est. Io ho dei grossi dubbi. Sì, io ce li ho anche io e me ritengo. Adesso intrecciamo questi discorsi con quelli che ci riguardano più da vicino, partendo da qui. Ma è l'unico modo in cui noi possiamo vincere le partite, perché è vero che abbiamo molto talento individuale, però se facciamo come nel primo tempo, che fermiamo la palla e lasciamo la responsabilità a uno solo, perdiamo quattro giocatori ogni volta e non ce lo possiamo permettere. Devo ringraziare questo pubblico fantastico che ci ha spinto incessantemente anche quando le cose andavano male. Speriamo di riuscire a giocare un'altra buona partita venerdì nella semifinale e possibilmente anche in finale. I ragazzi hanno difeso con un impegno eccezionale. Queste partite punto a punto con questi grandi nervi non possono che essere vinte in finale e con la difesa e andando a prendere falli sotto canestro. Sono le due cose che abbiamo fatto, dobbiamo continuare a farle. Sì, in futuro, perché poi come è andata a finire questa storia lo sappiamo. Cioè, a Torino la Croazia ha festeggiato, si è qualificata per le Olimpiadi e le ha condotte. Io saluto anche Werther Pedrazzi, mio grande amico del Corriere della Sera. Ciao Werther. Ciao carissimo Carlo, ben ritrovato. Ben ritrovato anche tu. Senti, personaggi in cerca d'autore, abbiamo parlato di NBA, LeBron, Steph Curry, Durant, ma soprattutto adesso Messina che ha deciso, e io ne sono strafelice ovviamente, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando siamo stati sanguinosamente eliminati dalla Croazia, speriamo che rimanga lui in panchina. Il desiderio è stato esaudito. è stato un po' il pensiero condiviso da tutti, perché quella infausta giornata di Torino, a mio modestissimo parere, segnava un chiaroscuro dove si era incerti fosse un tramonto o fosse la possibilità di un'alba futura, di una nuova giornata per la nazionale. Sai, Ettore Messina, io credo che dovrebbe nell'anima di tutti diventare una scelta indiscussa e indiscutibile, anche perché guardando il panorama Pianigiani ha già dato, Recalcati ha già dato, altri insomma non ne vedo, per cui Scariolo è impegnato con la nazionale spagnola, per cui ha l'esperienza, il polso di una situazione internazionale e le riconosciute anche capacità tecniche e motivazionali, per cui non vedo scelta alternativa, per cui deve essere il nostro di tutti commissario tecnico della nostra di tutti nazionale. Sì. Intanto Simone siede dietro Greg Popovich sulla panchina di San Antonio Spurs, magari con un pensiero al giorno dedicato all'azzurro. Sì, e un altro dedicato a quando si siederà, magari non di fianco a un capo allenatore, ma diventerà lui capo allenatore dell'NBA, che è forse uno dei grandi quesiti della carriera di Messina, almeno da un anno a questa parte, perché diciamo che lui sta evidentemente sta aspettando che Popovic vada in pensione, ma se va avanti così ci vuole ancora un po'. E comunque devo anche dire che una delle grandi qualità comunque di Messina è questo rispetto totale che riesce ad avere da tutti i suoi giocatori, ma anche dai giocatori avversari, per cui è una cosa che secondo me è un valore aggiunto molto importante, soprattutto per l'allenatore della nazionale, a mio avviso. Sì, Werder, nel calcio stiamo assistendo ad una nouvelle vague di nuovi giocatori, ci lamentiamo, ci piangiamo addosso perché siamo italiani, abbiamo questa abitudine, siamo poveri, brutti, sfigati, non produciamo talenti, giocano solo gli stranieri e tutte queste cose qui. Abbiamo una grande generazione di talenti che rischia di rimanere incompiuta e non vincente, nonostante il più grande allenatore italiano attualmente esistente come Ettore Messina. Speriamo che dietro ci sia qualcosa. Ma parzialmente e moderatamente dissento, in quanto non è vero che noi non abbiamo giocatori italiani. Se posso brevissimamente un aneddoto della mia gioventù, quando giocavo io e c'era addirittura una stagione uno straniero solo, sì, e al massimo due, il mio general manager diceva, aveva sempre un motto: noi possiamo insegnare a giocare a pallacanestro, quello che non possiamo insegnare a qualcuno è diventare 2,10 metri, per cui noi prendiamo solo stranieri pivot. Ecco, a noi in fondo manca un centro di spessore internazionale, ma proprio nella fisicità. Per il resto, se vuoi una mia opinione, io ho grandi speranze per la nazionale, perché penso che Ettore Messina abbia capito una cosa. Devo dire che ne ho parlato con lui, quindi non è che faccio poi proprio una cosa avventata. C'è stato forse a Torino, per la fretta, per l'urgenza, per il poco tempo, un errore di prospettiva, nel senso che i giocatori NBA, ovvero Belinelli, Bargnani, Gallinari, sono stati messi immediatamente come la base della nazionale. A mio modestissimo e ripeto ancora personalissimo parere, invece la base, diciamo, dovrebbero essere i giocatori quali Hackett, Aradori, Melli e i vari NBA essere, come posso dirti Carlo, il complemento, il di più, l'arma tattica decisiva. Tieni anche presente, questo mi dà grande speranza, io credo nel futuro della nazionale italiana, ci sono state troppe contingenze negative. Gigi Datome è arrivato letteralmente stremato, 6-7 kg sottopeso, stremato e sfinito da quell'orco di Obradovic e dal fatto di essere a ridosso di una stagione che è arrivata fino alla fine della fine, ovvero fino alla finale di Eurolega. Certo. Lo stesso discorso non possiamo trascurare, visto anche il recentissimo passato, che probabilmente non avevamo un Alessandro Gentile nel pieno della sua serenità, perché erano pochi giorni dalla sua dichiarazione. Per cui io credo che in una, diciamo così, in una normalizzazione dove i giocatori che si stanno esprimendo nei loro campionati, uno in Grecia, l'altro in Germania, e altri come Radori o Della Valle qui in Italia, noi avremo una base molto molto molto solida, con quella prospettiva forse leggermente variata, che non possiamo permetterci di esaurire come abbiamo fatto per 40 minuti per esempio Gallo. Tutto qua. Grazie Werther, è sempre un piacere. Ti abbraccio. È un piacere mio, un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. E io voglio chiudere con Simone Sandri, chiedendogli se è d'accordo con l'idea di Pedrazzi, cioè giocatori italiani ormai nell'NBA sono rimasti Berinelli e Gallinari, che possono essere complemento e non probabilmente rossatura. Sì, non, fino a un certo punto, secondo me Bellinelli e Gallinari sono i giocatori che invece è difficile considerarli un complemento, perché sono i giocatori a cui giustamente si chiede di fare la differenza, come la Francia chiede a Tony Parker quando era in Natale, o a Boris Diaw di fare la differenza, o a Dirk Nowitzki o la Spagna di Gasol. La Germania chiede, per cui è un discorso anche di talento, e se io l'ultimo tiro ovviamente lo chiedo a Gallo, cioè, poi in nazionale non è successo così, però dovrei chiederlo a Gallo o a Belli, ma soprattutto gli chiedo la personalità di tirarci fuori dai momenti difficili, di essere i giocatori ai quali danno sicurezza ai compagni, ai quali i compagni possono chiedere veramente il salto di qualità o di fare la differenza nel momento di non farci. Per questo secondo me è un discorso un po' complesso, soprattutto perché la realtà è che non c'è un'ossatura in nazionale di, non so, giocatori italiani che giocano in Italia, giocano tutti all'estero, per cui è anche difficile definire quale sia l'ossatura della nazionale italiana. Certo, grazie Simone, ci sentiamo prestissimo. Grazie a Simone Sandri da New York. Ora ci fermiamo, breve pausa, e poi apriamo il capitolo tennis, anche qui quattro personaggi che cercano un autore. Tutti convocati. Tutti convocati. He's done it! And what a way to win the title here! Defeats Milos Raonic, whose improvement has been a delight to watch. But it's Murray's time in the sunshine of center court once again. Vince Andy Murray la medaglia d'oro ed è la seconda consecutiva. Si conferma campione olimpico dunque, dopo 4 ore, 2 minuti di battaglia. It's victory for Andy Murray. And he is through to his first ever final here at the Barclays ATP World Tour Finals. E dopo il basket, per questo viaggio nel mondo del tennis, scegliamo per ogni sport quattro personaggi del 2016, aprendo finestre sul 2017 che verrà. Non potevo che scegliere come guida numero tutelare il mio amico Stefano Melocca da Sky. Ciao Stefano. Eccoci qua Carlo. Ciao. Eccoci qua. Insomma, hai scelto bene, voglio dire, non me Marre. è stato il suo anno. Io direi che i quattro personaggi sono Murray indubbiamente, indiscutibilmente in positivo, e poi sì, Djokovic in crisi ed in difficoltà, Nadal e Federer che sembrano quasi sul viale del tramonto, il famoso Sunset Boulevard. Abbiamo collegato con noi Stefano, non so se sei d'accordo su queste scelte. Io? Sì. Sì, Però io avrei al tuo posto, io sì, me la, avrei fatto una piccola paraculata, cioè avrei messo Nadal e Federer per antologia, ne avrei fatto un club unico e però a gusto mio, perché mi piace l'epica, io avrei messo Del Potro come quarto, capito? Cioè avrei fatto Djokovic, Murray, Nadal, Federer, tanto sono uguali, sono il passato, uguali. E avrei messo Del Potro perché facciamo, ha fatto cose romantiche, capito? E certo, noi lo facciamo con Paolo Bertolucci, cosa dici? Vabbè. Ciao Paolo! Mi senti? Pronto, malissimo. Malissimo, questo non è un bene. Stavamo parlando io e Stefano Melocaro dei personaggi del 2016 con finestra sul 2017. Ti richiamiamo Paolo Bertolucci così miglioriamo la linea e intanto chiacchiero con Stefano. Finestra sul 2017, tu metti Del Potro? Ma io voglio metterlo perché voglio credere ad un futuro migliore, ma non nel senso che l'annata appena trascorsa sia stata brutta, tutt'altro, anzi sono successe cose incredibili, però mi piace pensare che possa tornare, perché è uno che non sai mai quello che ti capita, che ti aumenta un po' il coefficiente di fantasia, un po' di il ritorno di quello passato, lo avevamo dato per perso e invece è ancora lì a lottare con i più grandi, ha giocato veramente una clamorosa finale olimpica contro Murray, ha vinto la Coppa Davis poche settimane fa, per cui Del Potro ce lo metto quasi sulla fiducia, ecco. Quasi sulla fiducia. Paolo Bertolucci, adesso mi senti meglio? Sì, un pochino meglio. Un pochino meglio. No, stavamo trattando io e Stefano dei personaggi del 2016, aprendo una finestra sul 2017. Beh, Murray il leader indiscusso di questa stagione e su questo siamo d'accordo. Djokovic con vari punti interrogativi intorno. Poi Stefano mette Nadal e Federer sullo stesso viale del tramonto, quindi nella stessa categoria, e ha la fantasia di Del Potro che possa tornare grande. Sì, sono d'accordo, ma soprattutto la speranza è quella del Potro, perché Del Potro deve sedere per forza al tavolo dei migliori, lo ha dimostrato in passato e quest'anno nel 2016 sembra che sia riuscito a entrare nuovamente così in alto. Ragazzi, vi chiedo ad entrambi, Murray è qualcosa di lunga durata, è qualcosa di, non dico di definitivo che è una parola grossa, però è qualcosa che durerà a lungo, è una superstar che durerà a lungo al vertice della classifica mondiale. Stefano? Allora, intanto fammi salutare il capitano verso il quale mi genufletto rispettosamente, ricordiamo che ha appena festeggiato 40 anni di Coppa Davis, Paolo, per cui insomma a lui va tutta la nostra ammirazione ed è la prima, sono anche un po' commosso perché è la prima volta che lo sento dire che è d'accordo con una cosa che dico io, di solito mi bastona, capito? Invece stavolta non è vero. grande Paul, e questa è la prima cosa. Murray, allora, proprio perché c'è Paolo Bertolucci qui, ti dico che la prima volta che io lo vidi giocare, quando diventò famoso Murray a Wimbledon di 100 anni fa, credo fosse il 2005-2006, era insospettabilmente Murray, e Paolo mi disse guarda che questo, eravamo insieme a Wimbledon mi pare, e Paolo mi disse guarda che questo diventa forte, io dissi boh, sto Bertolucci secondo me non, e Paolo dice guarda e questo diventa forte, e non solo è diventato forte e ovviamente Paolo aveva ragione, ma lo resterà a lungo, poi magari certo non sarà facile ripetere il secondo semestre di quest'anno, ma sul fatto che l'anno prossimo in questa data più o meno ci troveremo a parlare di Marra e io sarei quasi convinto. Anche tu Paolo? Sì, concordo, lui è stato bravo, ha approfittato anche di questo momento favorevole, nel senso che Nadal e Federer sono naturalmente scesi perché la carta d'identità pesa anche per loro e nessuno sinceramente poteva aspettarsi un semestre così fallimentare da parte di Djokovic, che adesso ha lasciato Becker e se rimane così nelle mani solo del guru probabilmente il prossimo anno Murray avrà la strada non spianata, ma sicuramente avrà una strada meno ripida. Senti, meno irta, scusate. Senti, Nadal e Federer sul viale del tramonto, siamo d'accordo tutti? Paolo? La carta d'identità, d'altronde arriva per tutti e arriva anche per loro, quindi non possiamo pensare di rivederli in alto dominatori come prima, però prima di darli, come dire, definitivamente sul viale del tramonto, siccome che sono due miti, non sono due fenomeni, sono due miti, Ecco, io ci andrei un attimino piano, perché qualche risultato secondo me alla fine lo portano a casa. Lo portano a casa, Stefano. Nadal tra un trapianto di capelli e l'altro, Federer magari bevendo l'elisir dell'eterna giovinezza. Si devono trovare un guru pure loro, capito? Dei guru, no, che tanto stare, piacciono, i guru che tanto piacciono a Bertolucci, capito? No, non lo so, io credo che ovviamente alla vigilia del Roland Garros dovremo dare Nadal per favorito, insomma tra i favoriti, tra i papabili perlomeno in ogni caso. E quando poi arriveremo il giorno prima di Wimbledon diremo, se Federer prende le due settimane giuste magari può ancora dir la sua. Io da parte mia do un pizzico in più di possibilità a Nadal, a Roland Garros, di quante ne do ancora a Federer a Wimbledon, e soltanto il Signore mi è testimone di quanto mi costi dire questa cosa. Però insomma, francamente, immaginarli ancora in vetta alla classifica, questo no, però in quei tornei lì magari possono ancora far qualcosa. Ecco, allora facciamo fare il guru a Paolo Bertolucci, ma anche a te Stefano. Abbiamo parlato di Del Potro come la rinascita dell'anno e magari la finestra sul futuro. Paolo, tu dovessi fare il nome invece di qualcuno che della classe emergente che ti ha impressionato in questa stagione, che nome faresti? Ma Zverev senza dubbio, poi sicuramente ci sono anche un paio di ragazzi americani interessanti, ma insomma Zverev mi sembra un bel passo avanti, e visto anche, come dire, l'età di questi fenomeni, io tra un paio d'anni lo vedo in vetta. Se non in vetta proprio nelle prime tre posizioni del ranking mondiale. Preso nota, Stefano? Sì, Zverev è un predestinato. Paolo bypassa al volo anche Dominic Thiem, perché ormai non è più un ragazzino, nel senso è già uno bello strutturato, però diciamo che tra i nomi che la maggior parte delle persone non conoscono, questo è già entrato top 10, dunque non sorprende nessuno. Magari potrebbe essere la stagione buona per lui, per fare un po', per trovare insomma una vittoria significativa, anche se a livello di slam mi pare difficile immaginare che Thiem possa vincere il suo primo slam. Credo che Paolo possa confermare che è uno potenzialmente da slam, ma non credo già nel 2017. Paolo, che ne pensi? Ma 2017 è un po' presto per Zverev, però non mi meraviglierei, insomma, se cogliesse una semifinale non rimarrei particolarmente sorpreso, però un passo alla volta, nel senso, vediamo adesso dall'Australia, vediamo soprattutto il lavoro fisico che ha fatto in quest'ultimo periodo con l'ex preparatore di Murray, e quindi è una certezza. Quando un giovane investe prendendo uno dei primi tre preparatori atletici al mondo, vuol dire che la vede giusta e che giustamente investe sul suo futuro. E sul tennis italiano cosa investiamo, Paolo? Come la mettiamo? La mettiamo che Fognini ha 30 anni e ancora siamo ad aspettarlo. Ad aspettarlo su quello che dovrebbero essere i suoi standard abituali, cioè un giocatore tranquillamente tra i primi 20 del mondo e che sulla terra battuta soprattutto potrebbe benissimo entrare tra i primi 6-8. Però siamo fermi lì. Vedi Carlo, il fatto che Paolo, comunque, se gli parli di tennis italiano maschile, il primo nome che ti fa è Fognini, è un buon segno per Fognini, ma non è un buon segno per, certo, il tennis italiano, certo, perché giustamente Paolo dice questo c'ha 30 anni, cioè capito, sarebbe molto molto bello farne qualcun altro di nome, ma io non saprei a che, cioè sì, magari poi arriva l'exploit, no? Non ci resta che pregare, cioè, sì, e anche per un tempo abbastanza lungo, secondo me. Cioè una bella preghiera proprio strutturata. Io ringrazio Paolo Bertolucci. Ciao Paolo. Grazie mille, ciao. Un saluto a tutti, ciao. Quanti. Buone feste, Paolo Bertolucci. Stefano, invece, tra poco avremo il traffico, poi un altro ospite, e poi vorrei approfondire il discorso Djokovic, che mi intriga un sacco. Dal punto di vista femminile, vabbè, Serena sempreverde come gli alberi di questo periodo, magari ogni tanto appassisce, però poi è capace di far spuntare fiori meravigliosi. È stato anche l'anno dell'addio a Flavia Pennetta, che si è in altre faccende impegnata. Sì, in faccende importanti e familiari, e poi Flavia Pennetta resterà per sempre nel nostro, cioè noi la adoreremo sempre come una dea, primo perché ha vinto lo US Open, secondo perché, come tu sai bene Carlo, lasciare con la coppa in mano è un privilegio veramente di pochi. Certo, cioè nel mondo dello sport, io ho visto molti articoli di giornale, adesso ecco, Rosberg, no, l'ho fatto adesso. Rosberg, esatto. Ma è rarissimo, io ho visto molte liste di ci hanno messo anche Borg in mezzo per restare al tennis, ma Borg non lasciò affatto con la coppa in mano, Borg lasciò proprio quando McEnroe cominciò a batterlo, ma lasciare da trionfatore, che è quello che ha fatto Flavia, e resistere alla voglia comunque di guadagnare soldi e comunque di fare ancora il fenomeno in campo, è una cosa che veramente la consegna bravo all'eternità del tennis. Bravo, bravo. L'importante è non voltarsi mai indietro, come sì Borg peraltro fece con risultati patetici, sì, sì, sì, giusto, se vogliamo giusto ricordarlo. Allora, ci fermiamo un secondo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Brexit, referendum, terremoto, premio Nobel sono alcune delle parole che hanno contrassegnato l'anno che sta finendo. Parole difficili che abbiamo scelto di spiegare e raccontare anche ai più piccoli. Sono Federico Taddia e insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani vi aspetto a Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Grandi ospiti per piccoli ascoltatori, per capirci di più e farci capire meglio. Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Da martedì 27 dicembre, ogni giorno alle 13.30 su Radio 24. Tutti convocati. Non vorrei parlare di questo perché non è giusto. Lui ha vinto il torneo, ha giocato meglio di me oggi, ha giocato buonissima partita, ha meritato di vincere. Comunque io ho avuto una settimana molto faticosa, però alla fine non si può parlare di questo. È rete, eccolo! È rete rovescio di Murray e Novak Djokovic si prende l'unico slam che gli mancava, il Roland Garros. Vince in rimonta in 4 set, ancora una volta batte in una finale di slam Andy Murray e adesso entra ancora di più nella storia del tennis, a tutti e quattro i majors a casa sua. Allora, qui in uno strano incrocio del destino possiamo far coincidere gli internazionali di Roma in cui Murray ha battuto Djokovic come il momento in cui Murray ha preso la rincorsa per arrivare al primo posto, e possiamo prendere la vittoria di Djokovic a Roland Garros, l'unico titolo dello slam che gli mancava, come il momento in cui è iniziato questo strano declino. Stefano Melocaro ci sta facendo compagnia in questo viaggio tra i protagonisti del tennis, cui si aggiunge Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Buonasera. Ciao, ciao. Siete d'accordo con quanto detto? Stefano. Ma ok, cominci da me, no, pensavo, capito, noblesse oblige. Noblesse oblige. Da Vincenzo, no, beh, ha dell'incredibile quello che è successo, dell'incredibile e contemporaneamente anche del banalotto, nel senso che Djokovic molto semplicemente ha vinto l'ultimo grande torneo che gli mancava, il famoso Roland Garros, lui avrebbe dato qualsiasi cosa per farlo, e da lì in poi probabilmente ci sono due cose, un po' la naturale, perché è umano anche lui, nonostante in certi momenti non lo abbia dato a vedere, la naturale caduta di motivazione, cioè hai vinto tutto, hai passato anni a sperare di vincere quella cosa, hai dato tutte le energie della tua vita per vincere quel torneo, finisci, hai completato lo slam di carriera e ti cala un po' la voglia, questa è una cosa. L'altra cosa è quello che ormai si può dire, perché lo leggi sui siti internet dappertutto, questi probabili problemi familiari, qualcuno ha adombrato crisi con la moglie eccetera, per cui se le due cose le sommi capisci che Djokovic, ma si vedeva benissimo, cioè, nelle ultime partite in cui l'abbiamo visto in campo, io ho ancora in mente la finale delle ATP Finals del Masters di Londra, cioè Djokovic sbaglia cose, ma non tanto gli errori tecnici quanto proprio l'energia che mette in campo è un trentesimo di quella a cui ci aveva abituato, perciò adesso guru o non guru passa un periodo di riposo, di high box, e poi secondo me lo ritroviamo più forte di prima. Noblesse oblige anche secondo te, Vincenzo Martucci, c'è qualcosa di più profondo, perché insomma lascia Becker, è il santone e non è più quello di prima, e si parla di crisi familiari, è così anche per te? Sì, beh, sicuramente sono molto sorpreso a tutte le cose che ha detto Stefano, perché coincidono tutte con la realtà. Secondo me la cosa più clamorosa è che lui abbia vinto Roland Garros. Io ero convinto che non ce la facesse, perché i prodromi di quello che è successo poi si erano già visti in Australia, in realtà quel match incredibile con Simon, che ha vinto giocando malissimo, e altri ancora, anche durante Roland Garros, tutti quei nervi, quegli scatti di nervi, ha rischiato la squalifica, il giocatore non era tranquillo. Io dico che l'emblema di tutto ciò è in una frase che lui ha detto al Masters, quando ha si è congratulato con la moglie di Murray. Ora Murray e Djokovic, come sappiamo, sono coetanei, sono separati da pochi giorni nel maggio dell'87 e tutto, però lui fece i complimenti alla signora Murray dicendo che aveva sostenuto un peso importantissimo con la nascita della ragazza, con la primogenita, col fatto che aveva sopportato la pressione di Murray per diventare numero uno, eccetera. Ecco, se uno fa un complimento del genere alla moglie del rivale, vuol dire che con la propria c'è qualche problema. Sì, Vincenzo, non per fare del gossip, ma perché comunque esseri umani, e di queste storie ne abbiamo viste tante, compresa Lady Federer in alcune situazioni. Ma la mia domanda è: rivedremo quel Djokovic al di là della vittoria Roland Garros? Perché questo è importante per il tennis. Secondo me, Luis, io parlo prima io, così sì. Anticipo un attimo, seguo quello che diceva. Ecco, chiaramente non sono uno da gossip, lo faccio notare proprio perché l'ho ascoltato e mi ha colpito molto. Mi ha colpito molto in quel momento, devo dire. Ecco, quello che io vedo tanto in Djokovic è quello che fu Borg. Io all'epoca assistetti al crollo violento, improvviso di Borg, era l'inizio della mia carriera. Borg, nessuno avrebbe pensato che sarebbe ritirato in quel momento, però anche lui, in qualche modo, come Djokovic, aveva questo tennis estremamente fisico, dispendioso, che non gli dava dei punti facili. E la stessa cosa è per Djokovic. Io non glielo auguro, al tennis non converrebbe, però ecco, non mi stupirei se il giocattolo si fosse rotto. Questo è puro pessimismo. Tutto vero, Carlo, però c'è una differenza che ovviamente Vincenzo conosce molto meglio di me, che Borg veramente, chi lo frequentava al tempo, chi lo conosceva al tempo, chi lo ha conosciuto, lo stesso Paolo Bertolucci che abbiamo sentito prima, ne parla proprio come di un disadattato sociale. Cioè Borg era uno che fino a 27 anni non aveva conosciuto altro che la racchetta da tennis, la palla, la rete e le stanze degli alberghi. Cioè proprio punto, era assolutamente privo di qualsiasi conoscenza della vita. Quando gli spiegarono le cose della vita, i piaceri della vita, anche quelli proibiti, e allora lì diventò pazzo e dunque proprio smise di fare qualsiasi cosa. Nel caso di Djokovic la questione è un po' più sfumata, perché Djokovic è uno che la vita l'ha vissuta normalmente, che si è sposato, che ha avuto un figlio, poi magari avrà litigato con la moglie, cose che succedono anche nelle vite delle persone molto meno ricche di Djokovic, per cui secondo me, io se devo, sì, ha ragione Vincenzo, cioè non ci sarebbe da meravigliarsi se la voglia gli passasse del tutto, ma in realtà io non mi meraviglierò neanche se Djokovic l'anno prossimo vincerà 2 slam su 4, capito? Sì, io un po' sì invece, non, il mio pensiero non è lontano da quello di Vincenzo, sono molto preoccupato per Djokovic. Anche a Vincenzo voglio chiedere se ha rivisto, come diceva Melocaro prima, in Del Potro un ritorno importante invece, e qualcosa che può essere una finestra per sull'anno 21. Beh, Del Potro è stato veramente la grande rivelazione dell'anno, l'uomo dell'anno è Del Potro, ha chiuso in bellezza con questa Coppa Davis che ha vinto praticamente lui. Io pensavo che Cilic potesse avere un peso differente, ma per l'ennesima volta è crollato sotto il profilo psicologico della personalità. Del Potro ha giocato, non dimentichiamo, l'altra grande, incredibile partita all'Olimpiade, è l'emblema di questo giocatore che di cuore, soprattutto di cuore, poi di potenza che c'ha, eccetera, ma di cuore veramente riesce, ecco, il simbolo di questo tennis che alla fine, per trovare qualcosa in più a questo bim bum bam che è diventato purtroppo senza Federer, si risolve con quel qualcosina in più che tu hai dentro. Io non credo però sinceramente che Del Potro l'anno prossimo sarà protagonista, non ci credo, perché secondo me il miracolo già l'ha fatto. Un miracolo si fa nella vita, due non credo, però questa è una sensazione mia. Io credo che l'anno prossimo avremo davvero un anno con questi giovani, che giovani più o meno Kyrgios, Zverev, questi qui, Thiem, che faranno delle cose molto grosse. Poi che vincano non lo so, che poi, come dice Stefano, può succedere che Djokovic e Murray si riprendano tutto, penso che sia anche possibile, perché il tennis è uno sport poi che a quel livello, abbiamo visto, vincono sempre gli stessi, eccetera. Sì, sì. E così come credo che ci sia ancora uno slam per Federer e non ci sia per Nadal. Vi chiedo, signori, di chiudere in rosa sul fronte femminile. Anche qui vale il discorso generale con l'eterna Serena Williams, Sharapova che ha passato i suoi guai, eccetera. Cosa vedete di nuovo sul fronte femminile a livello internazionale? Poi vi faccio la stessa domanda sul fronte italiano. Allora, se intendi fare la domanda partendo da me, è molto dura, perché questo è stato l'anno del sorpasso della Kerber su Serena, che sì, però ha vinto Wimbledon, che sì, però ha perso anche partite molto dolorose. Per il resto sono successe cose strane. Non c'è, io credo che anche con Vincenzo è difficile trovare un nome sul quale puntare e dire: sapete che c'è, io ho 50 centesimi di euro, li metto su questa qui che l'anno prossimo fa una grande stagione. Siamo ancora lì, banalmente, ma realmente, a dire che se Serena ha voglia di allenarsi è ancora la più forte di tutte, ed è clamorosamente vero, però la signorina comincia anche a essere, diciamo, in età piuttosto avanzata. Per il resto, rubando un termine che è andato molto di moda negli ultimi periodi, vedo una bella accozzaglia, in senso buono, in senso buono, cioè vedo grande equilibrio, ecco, mettiamola così, forse accozzaglia era un tantino forte come terminologia. Sì. No, accozzaglia ci poteva anche stare. Senti, io penso che sono d'accordo con Stefano, nel senso che Serena al meglio si fa sempre preferire a tutte sulla carta. Però io credo anche che le botte che ha preso Serena sotto il profilo psicologico, del vantaggio che aveva proprio psicologico nei confronti dell'avversario, a cominciare dalla semifinale degli US Open con la Vinci, e poi le due finali che ha perso quest'anno, io secondo me Serena farà tantissima fatica, a prescindere dalla sua potenza, il suo servizio, la sua cattiveria, anche se dovesse recuperarla, perché ho l'impressione che le altre abbiano recuperato quella sudditanza psicologica che avevano nei suoi confronti. E allora questo potrebbe essere l'anno, che so, appunto, come dice giustamente Stefano, di un grande equilibrio, con Pliskova, la stessa Kuznetsova, Sharapova che torna. Ecco, però Serena secondo me farà una grandissima fatica. In Italia, finita la storia delle ciechi, aspettiamo il ricambio generazionale? È dura anche lì, è dura, cioè se togli Camila Giorgi, che però alla fine pure lì sono anni che aspettiamo la definitiva esplosione, siamo aggrappati a Robertina Vinci, che ha deciso di giocare ancora, ma francamente il meglio lo ha già dato, credo lo sappia anche lei. Sarita Errani, anche lì discorso analogo, la Schiavone pure gioca, ma anche lei gioca più che altro per divertirsi. Dietro, francamente, gigantesco punto interrogativo, ma tendente al basso, cioè non c'è oggi veramente nessuna, che non sia poi se viene fuori il fenomeno all'improvviso siamo tutti contenti, ma certo, in realtà non accadrà. È vero, Vincenzo? Sì, è esattamente così, non c'è veramente. Io vorrei tanto credere in un miracoloso ritorno di Sara Errani o in qualche acuto della Vinci o della Schiavone, che hanno deciso in extremis di non ritirarsi, però obiettivamente sulla carta tutto ciò non c'è, come non c'è una miracolosa stagione della Giorgi, che obiettivamente adesso so che addirittura si è affidata all'Ele Mora come manager, senza niente togliere all'Ele Mora, però sono scelte un po' discutibili. Ma quantomeno si fosse affidata come Puglie a Tiriac, avrei detto: allora vediamo. Purtroppo ci sono dei cicli nella vita. L'Italia ha vissuto 10 anni straordinari, questo gruppo di ragazze che si sono date il cambio ad alto livello. E adesso dobbiamo aspettare un po'. Ragazzi, vi ringrazio molto, vi abbraccio, grazie Stefano Melocchero e grazie Vincenzo Martucci. Grazie. Io e Vincenzo grazie. Ci affidiamo uno all'Ele Mora e uno al Guru, così siamo a posto tutti quanti. Posso venire anch'io, così mi faccio due risate. Grazie davvero. Io ringrazio anche ovviamente Giorgio De Luca, il nostro autore, Avesia Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Alla prossima.